Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, a tutti buona giornata da Deborah Rosciani. Oggi parliamo di prestiti ad imprese e famiglie, perché secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, in caso di mancata concessione di prestiti da parte delle banche, i consumatori hanno diritto alla massima trasparenza. Gli istituti di credito sono infatti, dopo questa pronuncia, obbligati a fornire ai clienti ulteriori spiegazioni dettagliate che vadano a motivare il rifiuto, così come i dossier sulla situazione creditizia di ciascun risiedente, che deve essere messo a disposizione entro massimo 15 giorni dal rifiuto alla concessione del prestito. Salva Danaio oggi spiega il funzionamento di queste procedure, raccogliendo, come sempre, se vorrete, le testimonianze degli ascoltatori in merito alla difficoltà nell'ottenere prestiti in banca. Difficoltà peraltro certificata di nuovo per l'ennesima volta questa mattina dalla Banca d'Italia, che ha fatto sapere che prosegue e si acuisce a gennaio il calo dei prestiti a famiglie ed imprese. A gennaio, come diceva anche la collega Anna Migliorati nel giornale radio, i prestiti al settore privato hanno registrato una contrazione dell'1,6% su base annua e i prestiti alle famiglie sono scesi dello 0,6% sui 12 mesi. C'era un calo di mezzo punto percentuale a dicembre. I prestiti alle società sono invece in calo del 2,8%. Parleremo anche di questi dati, li faremo commentare ai nostri interlocutori di questa mattina, ma soprattutto, come sempre, vi rivolgiamo la domanda: vi è stato rifiutato un prestito? So già che molti di voi ci diranno di sì, perché sappiamo bene quello che sta succedendo da diversi anni a questa parte, da quando è esplosa la crisi nel 2008, ma il tema è soprattutto come vi è stato motivato questo rifiuto. È stato un rifiuto esauriente anche appunto nella spiegazione da parte dell'intermediario al quale vi siete rivolti. Raccontatecelo all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo anche sui social network, salvadanaio-radio24 su Facebook, su Twitter @salvadanaio24. Buongiorno e grazie a Giuseppe Piano Mortari, direttore operativo di Assofin, che è l'associazione che rappresenta le società finanziarie in Italia, banche ed intermediari. Piano Mortari, buongiorno, benvenuto, bentornato anzi. Buongiorno a lei che ci ascolta. Bentornato anche a Fabio Pizzato, direttore operativo di Supermoney, che è un comparatore di offerte e tariffe. Naturalmente non mi ricordo mai, Pizzato, se voi siete anche degli intermediari, nel senso, se una volta che io ho trovato anche la migliore offerta che fa per me in molti settori, perché voi appunto comparate le offerte in assicurazioni nel settore energetico, nella telefonia e quant'altro, se poi appunto attivate anche il rapporto, appunto il contatto diretto con la società che eventualmente pratica la migliore offerta. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì. Noi facciamo anche attività di intermediazione, mettiamo in contatto il cliente con la società, però tutta la parte di valutazione del rischio e quindi di, diciamo, erogabilità del prestito viene fatto direttamente dalla società finanziaria. Certo, quindi eventualmente, qualora arrivasse il famoso no, che è il presupposto della nostra trasmissione, voi lì a un certo punto non ne dovete più rispondere, ma ne risponde direttamente la finanziaria, la banca, l'intermediario appunto che ha rifiutato, no, la concessione. L'erogazione del prestito, perfetto. Tanto per essere chiari, grazie mille. Adesso, dopo avervi presentato appunto i nostri primi due ospiti, più tardi sentiremo anche il punto di vista accademico con un docente universitario. Abbiamo interpellato anche sul valore e la portata di questa sentenza della Cassazione il professor Gerardo Villanacci, docente di diritto privato all'Università Politecnica delle Marche. Sentiremo che cosa ne pensa. Adesso però la borsa. Borsa positiva, anche oggi vediamo una giornata molto brillante sui listini internazionali. Già stamattina le cose erano andate molto bene a Tokyo, con il Nikkei che ha chiuso con un rialzo del 2,64%, perché qua il mercato si attende ulteriore allentamento della politica monetaria. Poi il Giappone è uscito dalla recessione nel quarto trimestre dello scorso anno con il PIL stabile rispetto ai tre mesi precedenti, in rialzo dello 0,2% su base annualizzata. Anche Wall Street ieri sera è andata bene, oggi dagli Stati Uniti attendiamo il dato molto importante sulla disoccupazione di febbraio. Dow Jones ieri sera più 0,23%, anche in questo caso riconfermando i record di massimi dal 2007. Parigi andando in Europa più 0,9%, Francoforte più 0,6%, Londra più 0,47%, Milano più 1,10%, lo spread è sotto i 310 punti base. I migliori titoli in questo momento è nel Green Power più 3,34%, A2A più 3,6%, Saipem più 2,72%, Telecom dopo i dati diffusi ieri sera più 2,68%, con svalutazioni per 4 miliardi per il gruppo, dati però evidentemente attesi. Oggi il mercato appunto ritorna ad acquistare i titoli del gruppo delle telecomunicazioni italiano. Chi abbiamo invece di scesa? Autogrill, che perde 3 punti, e Campari meno 1,53%. Segnaliamo due sospensioni a Piazza Affari, Atlantia e Gemina, in attesa di comunicazioni da parte appunto della società. La borsa lo ha fatto sapere poco fa. Direi che tra l'altro anche Azimut va molto bene, stamattina ha ritoccato un nuovo massimo storico a 14,18 euro. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi: prestiti. La banca deve giustificare se si rifiuta di concederli a chi li chiede. In questo momento, si sa, non è facile ottenere un prestito. Sono sempre maggiori i requisiti e le garanzie che vengono richiesti dagli intermediari e dalle banche. Questo non significa però che il consumatore non abbia il diritto di essere correttamente informato sulle motivazioni per cui gli viene negato il finanziamento. A regolare la trasparenza necessaria in questo tipo di comunicazioni ci sono apposite norme, e a confermarle è arrivata recentemente una sentenza della Corte di Cassazione. Tutto è partito dalla vicenda di un consumatore milanese che nel 2008 è venuto a conoscenza di una segnalazione negativa a suo carico per un finanziamento stipulato con una SPA 5 anni prima. Pur avendo inoltrato via fax alla società una richiesta di accesso ai dati personali per verificarne il contenuto, la persona non aveva ricevuto alcuna risposta. Nel momento in cui gli istituti bancari ricevono la richiesta di prestiti, online o tradizionali, da parte di un consumatore, consultano solitamente appositi database che raccolgono informazioni sulla situazione creditizia dei richiedenti. In questo modo ne viene verificata l'affidabilità e si decide se erogare il prestito. Se il prestito viene negato, sottolinea la sentenza, gli intermediari sono obbligati a fornire ai clienti precise spiegazioni che motivino il rifiuto, compresi i dossier sulla situazione creditizia di ciascun richiedente, che devono essere messi a disposizione entro massimo 15 giorni. Se si è considerati per qualche motivo dei cattivi pagatori, insomma, si ha perlomeno il diritto di saperlo, con chiarezza e in tempi brevi. Il riscontro comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato, e l'intermediario è tenuto ad agevolare l'accesso del cliente anche attraverso appositi sistemi informatici. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666. Mi viene da ridere perché c'è Stefano che ci scrive: io sono un lavoratore dipendente da oltre 12 anni, ho chiesto il mutuo per l'acquisto della casa, mi sono stati proposti 45.000 euro, ci compro l'armadio, un armadio di lusso, Stefano, magari poco altro, l'arredamento e qualche altro lavoretto se la casa avesse bisogno appunto di essere aggiustata. Però insomma la situazione è questa, anche se si hanno le migliori credenziali, in questo momento i cordoni della borsa, delle banche, sono ancora molto tirati. Giuseppe Pianomortari, da cosa cominciamo? Da questa sentenza della Cassazione o dai dati diffusi dalla Banca d'Italia questa mattina? Sta cambiando un po' la tendenza o ancora prevale, vedo, il segno meno ovunque? Se vogliamo cominciare dai dati, cominciamo dai dati. Sì, i dati di Banca d'Italia sono riferiti alle consistenze di credito, noi abbiamo quelli relativi ai flussi che sono ancora più sensibili, e effettivamente continua a esserci il segno meno. Ci fa la differenza fra queste due voci, perché sa, non facciamo tutti il direttore operativo di Assofin, quindi no, magari certo, non siamo certo. Tutti. Le consistenze, diciamo, è lo stock di crediti che è nella pancia delle banche, degli intermediari finanziari, e le variazioni su questi valori sono sempre più ridotte. ridotte, mentre sono più sensibili, quindi insomma si vedono delle cifre più importanti se andiamo a guardare i flussi, cioè l'erogato nell'ultimo mese, nell'ultimo anno, in un periodo limitato di tempo. Ecco, guardando questo, cioè l'andamento dei flussi, verifichiamo una flessione sia delle erogazioni di credito al consumo, stiamo parlando di gennaio 2013, anche se abbastanza contenuta, dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sia una flessione più netta delle erogazioni di mutui intorno al 24%. Questo è abbastanza significativo anche perché viene dopo un anno, il 2012, in cui si è avuta già una flessione superiore al 50%. Infatti, e non è che l'anno precedente fosse andato tanto meglio, insomma, continuiamo a raschiare il fondo del barile qua, Piano Mortari. L'andamento è questo, ci sono, come dire, una serie di fattori contingenti che riguardano sia la domanda che l'offerta che contribuiscono a questo risultato in questo momento. Insomma, anche Mario Draghi ieri di nuovo è stato interpellato su questo tema: perché tutti i soldi che avete dato alle banche non si trasferiscono all'economia reale? Anche qua, insomma, mi pare che ricette e spiegazioni convincenti non le abbia neanche lui, perché comunque, anche se lui dice le banche devono continuare, devono riprendere ad erogare il sostegno finanziario a famiglie ed imprese, qua questa trasmissione sta cinghia, è ferma ancora. Detto questo, comunque, a parte il fatto che la banca può anche non concedere il prestito perché dice in questo momento, ed è successo per molte banche italiane, non riteniamo che sia strategica la fetta di core business dedicata a questo ambito, la banca può decidere di farlo per sua politica, può anche essere che però sia problematico l'interlocutore che ha davanti, no? Allora, in questo caso, Piano Mortari, la banca deve giustificare il rifiuto a concedere un prestito sia per l'acquisto della casa, ma anche perché magari si deve rinnovare l'arredamento dell'abitazione, e qui magari il prestito appunto ha un'altra finalità. Fino a questo momento, quante spiegazioni doveva dare l'intermediario? Che cosa cambia con questa sentenza della Cassazione di cui abbiamo parlato appunto all'inizio della trasmissione, anzi che rappresenta il presupposto della nostra trasmissione? Sì, no, devo essere sincero, la sentenza dice cose molto sagge, ma non è particolarmente innovativa, nel senso che le norme erano già in vigore da tempo, questa rafforza delle cose che però appunto sono già scontate, cioè quando la banca nel negare un finanziamento lo fa perché ha verificato la presenza del nominativo, comunque una storia creditizia non favorevole, insomma delle informazioni negative sul soggetto, deve, è tenuta sin dall'inizio a comunicare questa circostanza al consumatore, cosa che peraltro nel caso specifico, leggendo la sentenza si evince, aveva fatto la banca o l'intermediario, adesso non si sa, insomma il soggetto a cui era stato chiesto il finanziamento, cioè aveva detto: ho trovato dei dati negativi che ti riguardano. A quel punto il consumatore correttamente ha esercitato il suo diritto all'accesso ai dati, cioè ha voluto sapere di più, ha detto: ma quali sono questi dati negativi? E qui nasce la controversia, perché la banca dice di non aver ricevuto il fax, mentre il cliente può provare di averlo inviato, la sentenza dà ragione al cliente, dice: guarda che lui aveva esercitato il suo diritto d'accesso correttamente, quindi tu avresti dovuto fornirgli tutti i dati dettagliati riferiti alla sua posizione, così come è stata registrata nel sistema di informazioni creditizie. Quindi questo è il passaggio ulteriore, però non c'è dubbio che il cliente, è una cosa pacifica, che il cliente possa esercitare il suo diritto all'accesso ai dati, lo può fare sia direttamente nei confronti del sistema di informazioni creditizio, che presso il CRIF, sì, poi abbiamo preparato una scheda per spiegare anche ai nostri ascoltatori come si fa, sì. Sì, sia lo può fare chiedendolo alla banca o all'intermediario con il quale interloquisce. E in questo caso questo è avvenuto e non è stata reattiva, evidentemente non sufficientemente, l'intermediario finanziario, perché non ha risposto nei 15 giorni ritenuti il termine massimo entro il quale rispondere. Benissimo. Quindi questo è importante che tutti sappiano, i propri dati sono sono propri, e dunque si può esercitare sempre il diritto di accesso ai propri dati. Anche perché dobbiamo segnalare anche una circostanza, quella in base alla quale molto spesso, anche se si è dei cattivi pagatori, non lo si sa. Mi è capitato qualche tempo fa che un amico mi abbia chiesto appunto un'informazione, stava chiedendo dei prestiti, la prima banca gli ha detto no, perché è una di quelle famose che in questo momento non eroga quasi niente praticamente, e lui sulla base di questo diniego aveva avuto un automatico trasferimento della sua posizione al CRIF, dottor Piano Mortari, e di conseguenza le banche successive gli dicevano no per questo. In realtà non gli era stato rifiutato per un motivo preciso legato alla sua posizione, ma perché con la banca non eroga in questo momento. Per cui, siccome capitano poi anche queste situazioni, è chiaro che una persona deve sapere il motivo preciso per cui una banca gli dice no, perché magari è per colpa di qualche altra banca che ha rifiutato in precedenza. Allora, in realtà non è che il rifiuto da parte di una banca diciamo determina un'informazione negativa. Casomai, adesso provo a interpretare perché evidentemente non conosco il caso specifico, però la richiesta di un finanziamento a una banca, qualunque poi sia l'esito, viene registrata nel sistema di informazioni creditizie. Cioè, se io vado in una banca e chiedo un finanziamento, questa informazione viene registrata e mantenuta però per un periodo limitato, per 30 giorni. Se poi mi rivolgo a un'altra banca e questa seconda banca, accedendo al sistema di informazioni creditizie, accerta che io ho fatto una richiesta di finanziamento, magari il cui esito non viene esplicitato nel sistema di informazioni creditizie, non sa il motivo, la seconda. Non ha motivo, però insomma, come dire... non sa il motivo per cui la prima ha rifiutato, per cui si ritiene legittimata a rifiutare anche lei. Perché dice, ma perché potrebbe temere che io stia facendo quello che in gergo poco tecnico si chiama il giro delle sette chiese, cioè mi sto rivolgendo a diversi intermediari. Il richiedente seriale oppure. Esatto. Quindi casomai questo tipo di fattispecie. Però ecco, questa situazione la dobbiamo anche un po' superare, perché sennò qua piano mortari non aiutiamo nessuno. Fabio Pizzato, allora non so quale parte di tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento lei vorrebbe commentare. Sicuramente negli ultimi anni, con gli sportelli tradizionali quasi chiusi in maniera totale appunto nei confronti di famiglie ed imprese, probabilmente molti interlocutori si sono rivolti a questi ai comparatori online, no? Che magari in certe circostanze vengono visti un po' come i salvatori dell'ultima istanza, anche se per la verità voi lavorate magari per le medesime banche, i medesimi soggetti appunto che erogano, le medesime società di credito al consumo. Avete visto qualche tendenza nuova, interessante? Cosa ne pensa anche lei di questa sentenza della Cassazione della quale parliamo stamattina? Sì, allora, diciamo, le persone si rivolgono a noi principalmente perché siamo uno strumento, diciamo, di Pizzato, mi scusi, sta utilizzando il viva voce? No, ecco, perché la telefono, posso avvicinare. Ecco, la ringrazio, così è molto meglio, grazie. Avvicino il microfono. Diciamo, siamo uno strumento di trasparenza, nel senso che possiamo far vedere quali sono i costi di un prestito sul mercato e quali sono i player presenti. Poi, come lei dice, gli interlocutori sono gli stessi diciamo, a cui ci si rivolge sul mercato fisico. Quindi da questo punto di vista facciamo la vita, acceleriamo i tempi, diamo più chiarezza di quello che è il mercato in quel momento, ma non andiamo a erogare su soggetti diversi, in sostanza non andiamo a interloquire con soggetti diversi. Ma vi capita magari che vi vengano fatte delle segnalazioni sul fatto che la società di cui intermediate appunto l'offerta non si comporti poi correttamente appunto nella fase di spiegazione al suo interlocutore se questo dice no? Questi sono casi che accadono non di frequente, anche perché poi la comunicazione avviene direttamente con la banca in queste situazioni. Quello che capita è quello di cui discutevamo prima, che magari qualcuno, pensando di fare una richiesta sul web, fa richieste a più banche e dopodiché diciamo, gli istituti finanziari si trovano più richieste aperte e appunto su alcune di queste non viene erogato il prestito proprio perché ci sono altre, diciamo, dossier aperti. Ecco, quindi insomma questa mi pare già una considerazione importante da fare, una segnalazione importante da fare ai nostri ascoltatori. Se una banca vi dice no, intanto appunto verifichiate che non sia partito il domino dannoso per il vostro futuro di richiedente, e soprattutto non fate 12.000 richieste tutte contestuali, no Pizzato, perché appunto a volte la circostanza può essere dannosa. Esatto. Benissimo. Sì, volevo aggiungere altro? Ma se volevo un commento sui trend, oppure lo facciamo dopo. Lo facciamo dopo la pubblicità, la ringrazio perché sono già le 12.30, devo fare la prima pausa. Vi viene negata l'erogazione di un prestito perché in passato siete stati giudicati cattivi pagatori? Attenti alle truffe. Sempre più spesso, sedicenti consulenti e società promettono in modo truffaldino di intervenire effettuando la cancellazione dei dati negativi censiti sui sistemi di informazioni creditizie. Naturalmente in cambio del pagamento di una somma, a volte anche ingente. È bene sapere che le informazioni censite a sistema presso il CRIF, il gestore informativo più utilizzato da banche e finanziarie, sono inserite dagli istituti di credito nel rispetto della normativa vigente. Chiunque può inoltrare una richiesta di cancellazione in modo autonomo, semplice e totalmente gratuito. Per evitare le speculazioni dei truffatori, CRIF ha messo a disposizione un sito informativo che permette di sapere tutto il necessario sulla cancellazione dei dati dal sistema. www.cancellazionecrif.org. Questa è veramente una storia che fa non indispettire, ma veramente infuriare. La madre dei furbi è sempre incinta e davvero sulle difficoltà altrui c'è sempre qualcuno che trova il coraggio di andare a speculare. Qualcuno non ottiene un prestito, finisce nella banca dati dei cattivi pagatori, il sistema di informazioni appunto censite ufficialmente, il CRIF, e qualcuno si inventa anche un modo per dire: guarda, se mi paghi ti cancello io in qualche modo. Non credete a queste false promesse, perché sono peggio di quelle del gatto e la volpe di Pinocchio. Giuseppe Pianomortari, che dice: il CRIF è l'unico gestore informativo appunto che abbiamo in Italia, o esistono anche altre banche dati utilizzate da banche e finanziarie dove finiscono le persone in difficoltà che non possono rispettare gli impegni di pagamento? Ce ne sono anche altri, tecnicamente si chiamano appunto sistemi di informazioni creditizie. Oltre al CRIF, tra i più noti c'è Experian, che come CRIF è positivo e negativo, e c'è anche CTC, che invece gestisce soltanto dati negativi, cioè dati soltanto di pagatori che sono in ritardo, che hanno una storia creditizia non positiva. Ecco, magari tanto per dare anche dei termini di paragone agli ascoltatori, se una banca ci dice no perché risulta da queste tre banche dati che la persona in questione non sia stata corretta nel comportamento in passato, ecco, questi sono gli tre interlocutori principali del sistema. Sì, devo precisare però che nel momento in cui si fornisce l'informativa al consumatore in fase precontrattuale, devono essere indicate le generalità dei SIC dei quali si avvale la banca o l'intermediario finanziario. Quindi sin dall'inizio, dal momento in cui stipula il contratto, il consumatore sa quali sono i sistemi di informazione creditizia che saranno consultati. Quindi SIC sta intanto per sistema di informazione creditizia. Per cui se domani vado da banca Pinco Pallino e mi dice no ad un prestito, è perché sappi che io, avvalendomi della consulenza di questo sistema di informazione creditizia, può essere il CRIF come Experian, come ce l'hai detto prima, mi risulta che tu non hai un profilo, diciamo, totalmente immacolato. Sì, ma in ogni caso la banca è tenuta, indipendentemente dal fatto che nella informativa indica quali sono i SIC di cui si avvale, dovrà scrivere al consumatore e dire: guarda che non ti concedo il finanziamento perché il tuo nominativo è comparso, o comunque fra le informazioni che ho raccolto informazioni negative sul tuo conto in questo sistema di informazioni creditizie. Quindi questo è quello che già la legge prevede che debba essere fatto. Se poi il consumatore, come nel caso della sentenza, chiede di accedere ai propri dati, che è un diritto assolutamente garantito dalla normativa, lo può fare sia in maniera diretta nei confronti del sistema di informazioni creditizie, di cui dovrebbe avere gli estremi sulla base delle informazioni contenute nell'informativa, oppure può farlo attraverso la banca o l'intermediario finanziario. Per chi avesse perso la prima parte della trasmissione, la sentenza alla quale Giuseppe Pianomortari, direttore operativo di Assofin, ne faceva riferimento, è la numero 349 del 2013, quindi di pochissime settimane fa, e la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di mancata concessione di prestiti da parte delle banche, i consumatori hanno diritto alla massima trasparenza e gli istituti di credito sono obbligati a fornire ai clienti tutte le spiegazioni che motivino il rifiuto, come i dossier sulla situazione creditizia di ciascun richiedente, che deve essere messo a disposizione entro massimo 15 giorni. Andiamo ai nostri ascoltatori, poi ricoinvolgo Fabio Pizzato di Supermoney. Cominciamo con Fabio da Milano, a cui ha ricevuto un rifiuto per la concessione di un leasing. Fabio, buongiorno, con che motivazioni? Buongiorno, ma le motivazioni non ci sono, nel senso che è vero, dunque loro prima i SIC non me li hanno dichiarati, prima che facessi il leasing, poi quando me l'hanno rifiutato è arrivata una bellissima lettera di 2 pagine con circa 8 fonti diverse di dati, da cui risultava tutto a posto, ma comunque il leasing non me l'hanno dato, e dice semplicemente che riteniamo io non dovevo dare. Io a quel punto, un po' incuriosito, sono andato alla mia banca e ho fatto la stessa richiesta di leasing. Io l'ho fatta più o meno il 10 di gennaio, ad oggi la mia banca ancora non mi ha risposto. Per cui è anche vero che le informazioni ci sono, ma poi alla fine, anche se tutto il profilo è a posto, purtroppo non si ottiene. Ha sollecitato Fabio intanto, così, tanto per capire. Sì, ogni settimana io scrivo al mio direttore di banca, il quale costernato mi dice che non ha informazioni, anche perché lui ha anche una situazione nei miei confronti poi difficile, no? Perché poi è ovvio che io ho perso molto del rapporto con la mia banca, perché io non ho mai chiesto niente. La prima ma volta lui da chi aspetta? Cosa... No, mi scusi Fabio, ma il direttore della banca da chi aspetta una risposta? Ah, non... A me non è chiaro, devo dirle. Dal suo superiore che sta in un'altra città? Sì, ma siamo, tra l'altro stiamo parlando di 30.000 euro, quindi non è che stiamo parlando di una di cifra... 3 milioni di euro, 3 miliardi esatto, di euro. Esatto, folle, che uno dice, assicuro che è però... perfettamente nell'ambito dell'azienda, no? Il nostro fatturato è svariate volte più alto. Vediamo un po' che, cosa, insomma, che cosa ci dicono i nostri interlocutori. Vorrei chiedo un attimo di pazienza a Pizzato. Fabio Mortari, cosa può fare Fabio per chiedere una spiegazione, visto che ormai il 10 gennaio è passato da un po', quindi ha tutto il diritto ad avere ad una spiegazione a questo. Perché tra l'altro il direttore non dice neanche no, guarda, non te lo diamo, per cui dammi il tempo per scriverti una lettera formale. No, lui continua a dire ancora non lo so, non lo so. Sì, allora diciamo non vorrei che si confondessero i piani. Qui stiamo parlando di un caso in cui evidentemente non c'è nessuna informazione negativa relativa alla persona, quindi non c'è una presenza di dati negativi. Altrimenti sarebbe già evidente dall'inizio. Altrimenti avrebbe già dovuto rispondere e dirlo rapidamente, eccetera. Viceversa, come dire, la banca per sue politiche di credito in questo momento evidentemente ha il dubbio se erogare oppure no e dunque prende tempo. È una situazione certamente incresciosa, è una situazione che dà al cliente la possibilità di valutare la bontà della banca con la quale sta interloquendo. Esatto, il problema è che però magari lui potrebbe fare l'errore del quale abbiamo parlato anche prima, magari ammettendo che si volesse rivolgere ad un terzo soggetto, no? Per fare una medesima richiesta per vedere se c'è una banca più disponibile, però c'è una posizione sospesa con l'altra, quindi sì, lui è bloccato. Deve sollecitare come dire, una risposta e una liberatoria, cioè una dichiarazione nella quale la banca dice non abbiamo concesso. A questo punto potrà rivolgersi all'altra banca e dire guarda, troverai una richiesta aperta presso il sistema di informazione creditizia, ma sappi che sulla base di questa liberatoria la banca ha già detto che non me lo concede, quindi la puoi considerare chiusa quella richiesta. Benissimo. Quindi mi rivolgo a te per questa ragione. Caro Fabio, vada a mettere un po' di pepe al sedere a questo direttore e si faccia fare questa liberatoria, poi vediamo se si muove un attimo, se fa il suo lavoro. Fabio Pizzato, torno da lei, Supermoney, volevamo commentare con lei i dati che abbiamo dato all'inizio sul credito sempre più a secco per le famiglie italiane. Risulta anche dal vostro portale? Ma quello che risulta a noi è che stanno aumentando le richieste. Le richieste, di prestito, esatto, e le concessioni che sono il problema. Esatto, no? Quindi quello che stiamo osservando è che stanno aumentando molto le richieste per finanziare la casa, quindi o la ristrutturazione, o immobili, attività di questo tipo. E l'altra grossa fetta di richieste invece è sulla liquidità. Quindi liquidità e consolidamento, quindi persone che hanno più prestiti e attraverso un'operazione di consolidamento cercano di ridurre ad un'unica rata, quindi ad avere un rapporto con un unico istituto di credito. Questo è interessante quello che notate, perché mentre fino a qualche tempo fa sembrava essersi molto ridotta la componente dei prestiti finalizzati, cioè quelli destinati a comprare l'automobile piuttosto che l'arredamento e quant'altro, a tutto vantaggio appunto dell'ambito di liquidità, adesso forse comunque la richiesta magari c'è sempre stata, poi ecco l'erogazione è tutto un altro paio di maniche. La richiesta di liquidità per consolidare anche i propri debiti denota una grossa difficoltà per le famiglie italiane, che sappiamo bene non arrivano alla fine del mese e quindi hanno bisogno di qualcosa che integri il reddito mensile. Ce la facciamo a sentire Gaetano da Caserta prima dei suggerimenti per chi è in viaggio? Sentiamolo. Sì, Gaetano, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno, ci dica. La mia esperienza è un po' diversa dall'altro ascoltatore, sì. Dall'ascoltatore, sì. In effetti io con la mia azienda, noi facciamo impianti industriali, in particolare robotica industriale, abbiamo vinto un bando, veramente un progetto di pregio con il Ministero dello Sviluppo Economico, un FIT del 2009, e chiaramente il momento non è facile, quindi sono andato in banca e ho chiesto se c'era la possibilità di anticipare una piccola quota per affrontare la prima fase di investimento. Perché, come dire, l'aggiudicazione di questo bando, Gaetano, significa che il Ministero vi dà un po' di soldini per portare avanti la vostra azienda, la vostra attività? C'è una bella quota a fondo perduto, poi c'è un finanziamento agevolato a un tasso veramente interessante. Però loro ancora non ve l'hanno dato? il ministero no, perché non è previsto dal bando, è previsto che comunque si faccia la rendicontazione e poi successivamente il bando. E quindi lei ha detto vado in banca intanto con questa certificazione, con questa bella pagella che ho, almeno la banca. Perfetto. E loro? Esatto. La banca da dicembre praticamente, prima mi dicono un ni, poi un sì, poi un no, non capisco perché, ma ditemi qual è il motivo, mille documenti. E proprio l'altro ieri mi è arrivata una lettera sintetica, veramente, dove non c'è scritto niente, dove c'è scritto la richiesta non è stata accolta, forma tecnica della richiesta, anticipo su fatture, ma io non ho mai chiesto un anticipo su fatture, è totalmente un altro discorso. Ecco, qua è il problema, che bisognerebbe avere un bel legale esperto di queste cose che contesti anche la formulazione, no, di questa risposta. Gaetano, mi aspetti lì, piano Mortari, che dice? Che cosa devo dire? Da un lato mi sembra che ci sia appunto un errore nella qualificazione della richiesta della forma tecnica di finanziamento, da quello che capisco. Il principio è sempre... Cioè che... un errore nella forma tecnica di finanziamento, un errore fatto da Gaetano? No, nella forma tecnica come è stato qualificato, perché se Gaetano dice che non ha richiesto un finanziamento in quella forma tecnica, ma invece è stata qualificata così dalla banca, evidentemente c'è stata un'incomprensione, se così è. Se, insomma, mi sembra di capire da quello che dice l'interlocutore. Al di là di questo, il tema è sempre quello della scarsezza di liquidità nel sistema e quindi delle politiche restrittive che in questo momento gli istituti portano avanti. Sì, poi sicuramente la banca potrebbe dire, con quello che ci aspettiamo dalla pubblica amministrazione, che non dà un bel niente, figuriamoci Gaetano quando vedrà i suoi soldi. Adesso però, poveretto, non lo voglio neanche scoraggiare così, è stato bravo, coraggioso, audace, ha un bel progetto, se l'è fatto finanziare dal ministero, ma facciamolo partire anche questo ragazzo, santo cielo. Gaetano, vada un po' da un'altra banca, ci faccia sapere come va, intanto però contesti anche la forma della risposta, se ha voglia di far perdere tempo anche ad un avvocato. Ci fermiamo, ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio, intanto però saluto il professor Villanacci che ci ha raggiunto telefonicamente. Professore, buongiorno, ci sente? Sì, la sento bene. Ecco, ottimo, la salutiamo e adesso andiamo a sentire i suggerimenti per chi è in viaggio, poi sentiamo un commento anche da parte sua. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Professor Villanacci, ancora buongiorno. Non so se lei è riuscito a sentire un po' della nostra trasmissione nella prima parte. Abbiamo commentato a lungo la portata di questa sentenza della Corte di Cassazione e poi ci siamo tuffati nei casi pratici, concreti, reali dei nostri ascoltatori che ogni giorno ne sperimentano una diversa, naturalmente, con il mondo bancario. Ahimè, lo sappiamo bene. Qual è la portata, secondo lei, e il valore di questa pronuncia della Cassazione che chiede alle banche di essere totalmente trasparenti nei confronti della clientela alla quale negano un prestito? Beh, intanto mi scuso, ho sentito solo la parte terminale, insomma, dell'intervento. So che l'abbiamo tirata fuori da un convegno. Ma chiedo scusa di questo. Ci mancherebbe. Beh, insomma, io non saprei dire se effettivamente, come forse con eccessiva enfasi, questa sentenza di cui stiamo parlando possa definirsi storica, ma certamente è una sentenza molto importante perché enuncia un principio che è quello della trasparenza e sostanzialmente è attuativa di alcune disposizioni che non sono nuovissime, parliamo della legge sulla privacy, parliamo delle disposizioni collegate, il codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi, che sono sempre emanazioni, diciamo, del garante. Quindi ha introdotto questo principio di trasparenza che implica anche un obbligo da parte degli operatori finanziari, anche delle banche, nello specifico si tratta di una società finanziaria, di un gruppo bancario, a fornire su richiesta le informazioni al consumatore in ordine ad eventuali valutazioni negative dello stesso. Sì, insomma, ci ha parlato un po' come dire in gergo accademico, professor Villanacci, ecco, vabbè, possiamo tradurre per noi. Provo a semplificare. Intanto voglio dire due cose. La novità assoluta consiste nel fatto che per la prima volta vi è stata da parte di un organo giurisdizionale una decisione di questo tipo, nel senso che già il garante aveva emanato provvedimenti analoghi alcuni anni fa. Questo dobbiamo dire, il garante della privacy aveva già disposto in maniera esattamente identica come ha provveduto la sentenza della Cassazione di cui stiamo parlando. Ottimo, quindi insomma avevamo già una bella... Però insomma il provvedimento è stato del garante, in quel caso qui abbiamo un provvedimento invece di un organo giurisdizionale al massimo livello, perché stiamo parlando della Corte di Cassazione, stiamo parlando peraltro di eccellenti magistrati, a partire da relatore di questa sentenza. Quindi il punto qual è? È che va anche detto, io non, giustamente non voglio essere molto tecnico, capisco perfettamente che c'è questa difficoltà. Sa com'è, perché poi, ecco, perché poi sì, anche sì, no, mascherandoci dentro tanti paroloni, diamo sempre la convinzione agli ascoltatori che sono tutelati sempre e comunque, poi loro quando vanno in banca, poveretti, non sanno trasmettere con parole esatto. semplici quello che hanno sentito alla radio, vanno con la convinzione di dire adesso qualcosa è cambiato perché l'ho sentito a Radio 24 ma non lo sanno spiegare, diamo loro anche gli strumenti allora, per poter interagire, ecco. Se posso partiamo un attimo, non saprei dire se è proprio dalla coda, ma insomma cerchiamo un attimo di dire questo, che chiunque, qualunque consumatore, ognuno di noi, perché poi parliamo di cittadini, al di là del fatto che possono essere in alcuni casi qualificabili o possiamo essere noi qualificabili come consumatori, abbiamo diritto di poter conoscere se sul nostro conto siano state fatte delle segnalazioni negative. Uh-huh. Vale a dire, il punto qual è? È che normalmente ci si rivolge ad una società finanziaria, anche ad una banca, per avere l'erogazione di un finanziamento. Purtroppo accade che si attende invano molte volte, ma comunque molto tempo per avere una risposta. Infatti ce l'hanno raccontato. A volte succede che, se non sempre, che questa risposta potrebbe risultare negativa senza una motivazione di fondo. La motivazione ad indagare un po' meglio è data dal fatto che quel consumatore richiedente, il cittadino richiedente, risultava essere in qualche modo indagato, nel senso che veniva considerato come insomma, un soggetto a rischio di rimborso del finanziamento. Ora, il punto qual è? È che i cittadini non hanno consapevolezza di questa circostanza, attendono tanto tempo e anche quando arriva la risposta non sanno esattamente le ragioni per cui gli è stato rifiutato un determinato finanziamento. Hanno interesse a saperlo invece, questo è il punto. Esatto. E quindi nel momento in cui formulano questa richiesta, poniamo alla banca o alla società finanziaria, per dire per quale motivo non mi avete erogato il finanziamento che ho richiesto? Adesso la banca deve essere cristallina nel dire no, perché. Esattamente, no, ecco, deve dire e deve farlo entro un termine che la legge già aveva previsto di 15 giorni. Esatto, anche perché molto spesso questi soldi servono per mandare avanti un'impresa, un'attività, la vita della famiglia. Non è che uno va in banca e chiede 15-30 mila euro così perché la mattina non ha niente da fare e si diverte. Per cui ci manca un minuto prima di concludere. Volevo sentire l'ultimo caso, ce ne sono altri, io mi scuso, ma magari ci torniamo presto su questo tema. Alessandro, dalla provincia di Milano, buongiorno, rapidissimo. Pronto, buongiorno. Il mio caso è un po' particolare, mi è successo 8 anni fa, ho ricevuto in eredità una piccola casa, mi servivano 10.000 euro per fare due o tre lavoretti, okay. Esatto. Sono andato in una finanziaria e ho fatto la richiesta. Il giorno dopo mi ha contattato mio fratello che riusciva a prestarmi questi soldi lui direttamente. Benissimo, quindi sai che c'è, guarda che in banca non ci vado, evitiamo gli interessi appunto. Esatto. Ho chiamato la finanziaria e ho chiesto di annullare la pratica perché non mi servivano più questi soldi. Dopo circa 6 mesi devo comprare la macchina, vado in un concessionario, faccio le carte, mi arriva una lettera in cui mi dicono che sono segnalato al CRIF come cattivo pagatore e quindi non mi avrebbero dato i soldi. Ho fatto indagare dal mio avvocato su questa storia e ho scoperto che la finanziaria mi aveva segnalato al CRIF come cattivo pagatore. Alessandro, la ringrazio. Piano Mortari, chiudiamo in 10 secondi. È un caso di 8 anni fa. Oggi potrebbe succedere una circostanza del genere? Ma allora, il caso mi sembra veramente, come dire, estremo. Finanziaria dubbia, vorrei anche vedere chi era. Dovrebbe aver ricevuto molti documenti che, diciamo, di conferma del contratto sottoscritto, eccetera. Quindi, come dire, mi sembra assurdo già il caso in assoluto. Vabbè, speriamo che oggi non succeda più. Grazie a Giuseppe Piano Mortari, a Gerardo Villanacci, Fabio Pizzato per essere stati con noi. Noi torniamo lunedì, a tutti buon weekend, da Deborah Rosciani.